pensi di tutto questo? Amico, non mi sono fatto un'opinione. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema è la Santoro, vogliamo il presidenzialismo. Favorevoli 334, contrari 61, la Camera approva. Missione compiuta. Il governo ha mantenuto l'impegno preso con i cittadini. Fare dell'Italia un paese in cui il giorno dopo le elezioni si sappia chi ha vinto. E la legge elettorale è il simbolo di un governo che non si limita a predicare le riforme, ma le fa sul serio. Abbiamo promesso e abbiamo mantenuto. Habemus Italicum. Dopo 105 settimane decisive di questa legislatura, habemus Italicum. Sicumera senza pari, Maria Elena twittò a me: sarà l'ultima settimana. Ciao Maria Elena. Questo alle 8 del mattino. Sapeva qualcosa la Maria Elena, eh? Eh sì, sapeva che i giochi erano fatti, la maggioranza aveva i numeri, le fiducie erano votate. Habemus Italicum. Sono le 6:30 minuti, cari italiani. Non sto dicendo che sia una buona legge elettorale, non lo so, per conoscere una buona legge elettorale, essere esperti di legge elettorale, tutti parlano, cianciano di legge elettorale, bisogna essere il professor Dalimonte, no, che è favorevole a questa legge elettorale, bisogna essere Valerio Nida, costituzionalista, presidente emerito della Corte Costituzionale, che sul Sole invece dice che questa legge elettorale è sbagliata. Cioè, per essere esperti di leggi elettorali veramente, se no vabbè, sì, anch'io leggo il premio di maggioranza, lo sbarramento al 3%, mi faccio un'idea, ma insomma la legge elettorale è una cosa molto complicata, eh? Non è che gli effetti si vedono e si sanno così in 4-4-8. Comunque, habemus Italicum, piaccia o no? Se non altro il contatore delle 105 settimane decisive si ferma, rimane quello per l'abolizione delle province. Siamo alla 105esima settimana decisiva per l'appunto, ma la legge elettorale c'è. E allora, con come c'è Lorenzo Nespoli qui in redazione, c'è Peter Pescapè, il nostro alpino in regia, ci sono anche gli ospiti, a cominciare da Mario. No, sarà, stavo annunciando. Sarà. Lei. Ma buongiorno Milan, un caro saluto a te, un caro saluto agli amici di Radio 24, italici e non. Italici e non, italici nel senso plurale di Italicum. Sì, o sì. Boschettum, o Renzitellum. Renzitellum, Boschettum. Non lo so, c'è un'Aurora Lussana che da ieri è un po' depressa. Ieri vedi te, ma scusa, allora da ieri mattina che fai, cos'è, il pavone, il gallo cedrone, perché hai twittato con la madre di tutte le riforme, la nostra splendida ministra Boschi. E io che devo fare? Finita, basta, dai, dillo. Da ieri mi ha mandato questo messaggio, posso dirlo, cara Aurora? Leggi. Ha detto, a un certo punto vado a bere il caffè e mi dice: va bene, adesso twitti con la Maria Elena, poi con Chiara Geloni ieri cerchi di piazzarla all'Unità. Insomma, tra noi è tutto finito. Ma ti sposi, Aurora Russana, ti sposi, cosa vuoi da me? D-Day 6 giugno. Le riforme passano da 24 mattine ormai. Esatto. Vediamo se ti twitta anche Mattarella quando lo firma l'Italicum. Non credo, non ha Twitter. Comunque non illuderti, ieri la ministra mi sembrava un po' presente, Vasavasa, te lo ricordi, passava tutti anche lei. Non illuderti, non farti illusione. No, certo. Allora saluto Marione Adinolfi. Marione, eccoci. Buongiorno. Qua, già in clima partita, birrone, spaghettone. Bello. Ma come la vivi tu la partita? Senza rotture di palle, con tutti fuori, insomma, ecco, questa è una cosa che decidi. Allora spegni il cellulare, No, mando proprio direttamente a quello, lo tengo acceso per il gusto di stare chi mi telefona. E se uno ti chiama durante la partita? Becca l'insulto matematico. Non la proprio dire, è diretto. Sì, ma neanche tra il primo e il secondo tempo? Neanche, no, lì devo pisciare. Tutta una serie di cose. Che immagine! Lo fanno tutti, lo sai. Penso che più o meno sia una cosa popolare. Vabbè, già in clima partita per Juventus Real Madrid, andata di semifinale di Champions League. Dai, apriamo il Parlamento, su, che qua c'è da discutere. Cosa c'è da discutere della legge elettorale? Ieri prendere un caffè, quindi eccola prima ci vediamo qua, per Maria Adinolfi ieri ha scritto: vabbè, dai, basta, è storia, adesso discutete quello che volete, la legge elettorale c'è, punto, a capo. No, non ho detto solo questo, che poi dopo, come forse sai, la Croce oggi è l'unico quotidiano che apre e dice: senti, decide Mattarella, perché la legge non c'è tecnicamente, pur non essendo Onida o Dalimonte, vi ricordo che la legge non è promulgata, quindi insomma, tra un anno, dire, come tra dicono un anno. Tutti i giornali, che la legge c'è, non è vero, la legge no, deve essere ancora promulgata, quindi neanche c'è tecnicamente, perché finché Mattarella non firma, e secondo me non firma in 40 secondi, ecco, questo per avere perché idea. Repubblica e il Corriere dicono che i profili di incostituzionalità non ce ne sono. No, però lui vuole far pesare il suo ruolo un po', no? Quindi io sicuramente alla fine firma, però non credo che arriverà proprio liscia la firma, anche per far vedere, insomma, che vabbè, ho fatto tutto sto casino, ho fermato il contatore, dovevo continuare. Non c'è, bravo, infatti dovevi leggere l'apertura della Croce, l'unico giornale che tecnicamente è preparato sulla legge elettorale, ecco. Italicum ora decide Mattarella. Questo è il titolo. La foto è di Mattarella, non della Boschi, insomma, capito? Perché io capisco la necessità di coltivare un rapporto con una ministra. Ma diciamo, che necessità? Ma che rapporto? Non ho nessun rapporto con Mattarella. Il dato interessante è capire che insomma le dinamiche in Italia sono sempre complesse. E questo è. Vabbè, vedremo. Per te Aurora firmerà? Facciamo il toto firma. Ma chi è che l'ha messo di Mattarella? Io. Ecco. Ho messo di Renzi, su. Eccola. Il complottone. E allora? Ma no, vabbè, ma ci sta, ma va bene, ma lo sapevamo il ragazzo. Ho vinto tutte le partite, poi il paese è sfasciato, ne sono sbarcati 3.000 di clandestini in 3 giorni, Milano ha visto come me l'hanno conciata. Ieri sei andata a ripulire, cosa avete fatto ieri davanti alla scala? Ieri eravamo alle 6, ci siamo trovati di fronte a Palazzo Marino, in Piazza della Scala. Avevano già pulito tutto? Cosa c'è? Era già stato tutto pulito? No, è andato lì Matteo Salvini e alla fine poteva anche non andare, tanto Matteo Salvini queste cose le ha sempre detto. Basta. Dovrebbero mettere un cartello invece che invitare Salvini in televisione. Comunque, la Lega l'aveva detto, Salvini sì, ha ragione. Però Aurora, c'è un dramma, perché Peter Bescapè, il nostro alpino, ieri era lì da quelle parti, ha visto un casotto, è andato lì, è venuto lì, ma dice: porca miseria, c'era l'Aurora, non l'ho, me la son persa. Cioè, è lui che doveva vederti, perché tu non lo conosci. Ero lì davanti al comune, c'erano i fumogeni verdi. Dove c'è fumogeni verdi? Vabbè, dove c'è la Lega c'è Aurora Lussana. Vabbè, comunque la firma, secondo te Mattarella è stato messo lì da Renzi, e quindi, caro Marione, firma. Sì, ma non nego che firmi. Il problema è capire le tempistiche, perché devi su questo leggere il rapporto Mattarella-Renzi. È vero che Mattarella ha messo lì da Renzi, ragione Aurora, è sicuramente una presidenza della Repubblica rispettosa dei rapporti di forza. Questa è stata tutta una vicenda di misurazione dei rapporti di forza e Renzi riesce piuttosto bene da questa competizione. Allo stesso tempo ricordati che è il presidente che voleva anche la minoranza, quindi sì, è messo sì, lì sì. Perché è sicuramente un costituzionalista insigne, capisce molto e sa del ruolo che il Quirinale deve svolgere come ruolo di garanzia. Dunque credo che il giochino, un po' gliela farà studio pesare. La legge, un po' gliela esatto, farà pesare. Sarà un giochino che in questi giorni... Comunque voi avete passerà. Dei dubbi, vedrete, ma chi non ha dubbi è Maria Elena Boschi. Boschi dice che Mattarella firmerà. E allora se lo dice la Maria Elena, lo dice la Maria Elena. Qua, senti un po'. Mattarella potrebbe anche non firmarla. Beh, io ovviamente rispetto il ruolo del Presidente della Repubblica che valuterà se firmarla o meno. Ovviamente io non sono tra quelli che tirano per la giacchetta il Presidente della Repubblica, quindi nelle sue prerogative valuterà lui. Però più di una volta, siccome il Presidente no? della Repubblica è un costituzionalista, è un giudice della Corte Costituzionale, io sono convinta che proprio dall'alto della sua competenza firmerà questa legge. Sentite come ha detto giacchetta, Aurora, cioè capisci? Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando è l'altro vi saluta. È lei, è lei. Ecco, ecco. La imiti abbastanza bene. Sì, Che ogni lingua va dicendo e l'anima sospira. Sì, Hai capito, Marione? Voto Aurora Lussana, non male, non male. E allora, e adesso che cosa farà la minoranza del Partito Democratico? C'è no, Civati, no, c'è no, Civati che ha fatto dai, un'intervista al Fatto. Cioè, ovviamente non faranno niente, questo è chiaro. Civati ha fatto un'intervista al Fatto, ha detto, no, chiariamo subito, non sono mai fuori dal vicino al va fuori uscita dal PD come in questo momento. Ormai vicino quanto. Per me addio a un passo. Ora il referendum lancia, mi pare, anche il dissidente. Ma referendum, sì. Lancia referendum. Civati. Che farà la minoranza PD? Dai, Marione, no, adesso seriamente, al Senato, hanno i numeri per bloccare la riforma del Senato? Ma non, allora forse non vi è chiaro, questi tornano a lavorare se si salta la legislatura. Renzi aspetta in questo momento, forse non avete capito, solo una mezza scusa per andare ad elezioni, solo una mezza scusa. Adesso. E non tiratemi fuori la questione della legge che entra in vigore a luglio 2015, sì, perché in teoria, intanto è aggirabile con un decreto che può fare domani mattina, secondo è diciamo così un elemento che lui può andare a votare anche col consultellum, con i rapporti che si sono creati ora, i rapporti io non l'ho descritto oggi nell'editoriale sulla Croce, sì. Questo sistema costruisce un sistema da Biancaneve ai sette nani. E Biancaneve le elezioni con i sette nani le vince sempre, inevitabilmente le vince, perché la frantumazione del fronte di opposizione è talmente grande che non è immaginabile una concorrenza se non a 20 punti di distacco. Sì, sì. Quindi che partita c'è? Quale partita è in corso? Qualsiasi partita che porti questa legislatura a compimento è un regalo fatto a Renzi. Oh. Quindi la minoranza PD non è in quella condizione, Matteo, che si chiama win-win. Sì. Qualsiasi cosa accada vince. Quindi non, la minoranza PD cosa vuole fare? La scissione per fare il partito che deve fare la partita per no, il 3%? No, ma infatti non... infatti non è che dice esco dal PD. Dice, occhio, esco dal PD, sì, così fa lì servizio al fatto. Sì, è chiaro, fa un po' l'effetto attenti al lupo, è da due anni che dice, alla prossima esco, Adesso la legge elettorale l'hanno pure fatta, adesso scuse sono finite, insomma, devi uscire, esci. Ma se esci torni a casa, questo è chiaro, insomma, no? Questo è un po' quello che succede. Questa legge elettorale elegge, fa il 3%, diciamo così, elegge 15 deputati, allora lì sono 15 colonnelli, già se li conti se cominci a mettere in fila, Passina, Cooper, Lovendola, su questo sono d'accordo. Allora, il problema è che fanno anche dal centrodestra, cioè voglio dire, si hanno fatto l'Aventino è una cosa seria. Sono usciti per non votare la legge elettorale. Sentite, Brunetta è il Brunetta del giorno. Oh, oggi non ho ancora Salvini. Ah no, c'è Salvini. Salvini ieri un paio di trasmissioni e da tre forni a microonde è uscito, anche. Che c'è, Aurora? Che c'è? Invitano. È lui il componente della fu opposizione. Nel senso, se non ci fosse Salvini, non c'è neanche l'opposizione. Ok, e quindi è la quota opposizione. Parli, sto ragazzo, fatelo parlare. L'altra volta avevi detto quel gran pezzo di Manzo. Adesso... No, ma perché siete tutti ossessionati da Salvini, no? Sì. Questa ossessione, boh, probabilmente sì, come ragazzo, ah, magari sarà, ci è sarà un'attrazione fisica, di, quella che abbiamo. Sì, c'è qualcosa di subliminare, di arcaico. Vedi? Vabbè. Allora, poi voglio chiedere una cosa a Maria Di Nolfi per un candidato del PD, che è apparentato col PD, De Luca, in campagna, che ha detto una cosa sugli omosessuali. Ma prima voglio farvi sentire Brunetta. Vittoria di Pirro, quella di Renzi e del suo governo. Con questi voti al Senato la riforma costituzionale non passerà mai, e se non passa la riforma costituzionale del bicameralismo paritario al Senato, questa riforma della legge elettorale è incostituzionale. Ecco, così parlò Brunetta. Per un attimo ho capito Pirlo, Vittoria di Pirlo, ho temuto tantissimo per questa sera. Ma è meraviglioso Brunetta, spettacolare. Però effettivamente, se tutti i deputati, i senatori bersagnani, chiamiamoli così, confermassero il voto lì sulla riforma costituzionale, i numeri devono essere diversi, quindi potersi... Io scommetto quello che ti pare che si inventano un meccanismo si piegheranno, di si piegheranno. La responsabilità, il partito, la ditta, track e ferma. Sai che ha detto il candidato Aveta, tale Aveta Mussoliniano, sta con De Luca in campagna. I gay mi fanno schifo, si può dire in un paese normale e libero ancora, sì o no? Questo l'ha detto qualche tempo fa. Tu sottoscriveresti dall'alto della croce? Assolutamente no. Siamo avanti, insomma, io non ho mai ha avuto opinioni, diciamo così, lesive della dignità della persona omosessuale. Non esiste al mondo che si possa dire una cosa del genere. Non esiste il tema. Io sono un cittadino contrario al matrimonio omosessuale, non ho niente contro una persona omosessuale, nulla. Sono un cittadino che, se deve decidere come va organizzata la società e la famiglia, ritiene che l'istituto matrimoniale, poiché da un paio di millenni è organizzato rispetto a delle, diciamo, sacrosante esigenze di unione di uomo e donna e tutela della potenziale prole derivante, non credo che sia giusto equipararla a un altro tipo di unione. Questo è un argomento quindi... spero di avere cittadinanza, ma questo sì, ma essere contro nei confronti delle persone omosessuali non ho alcuna. Vabbè, quindi bocciato il poi non sono mussoliniano candidato, per farlo ricordare questo Aveta. Perché non parli della candidatura di Enrico Maria Natale in campagna per De Luca? Il papà Mario è vero, stato due volte è vero, per la camorra è vero, c'è stato, cioè questo è uno degli incandidabili, e questo Natale sei candidato sempre con De Luca, il papà è stato arrestato due volte per camorra, vedi, l'ho detto come te, a pappagallo. Va bene, così l'hai detto, bravo, tu, bravo, l'ho detto bravo, io, bravo, era forzativo. Vedi che la rieducazione serve. Ieri mi faccio rieducare volentierissimo da Aurora Lussani. Campi di rieducazione. Adesso andiamo con un bel campo di rieducazione con Aurora Lussana che mi frusta. Va benissimo. Allora, il traffico, e poi rientriamo. Vogliamo parlare ancora della Milano devastata? Vi devo far sentire un audio di un'altra rappresentante dei centri sociali, gli amici di Aurora Lussana, i centri sociali di Bologna, quelli che amano Salvini lo accolgono sempre con fiori, rose e bottiglie di spumante. Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do poco alla banca sono un coglione. 24 mattino. La C Milan nuoce gravemente alla salute dei suoi tifosi, ma è un ottimo rimedio contro la stichezza, perché quando gioca fa letteralmente bip. Alessandro Milan, l'Expo, non si dovrebbe chiamare esposizione universale. Cosa c'entra l'universo creato? Ma perché da Marte vengono qui a Milano a esporre, o da altri corpi celesti? L'universo è l'universo e comprende tutto il creato. Sì, buongiorno Milan, volevo fare il doppio augurio alla signorina Lussana, eh? Il primo è perché tra un pochino si sposa, e il secondo è per l'ennesimo matrimonio di Salvini con Forza Italia. Ma che pensa, che tutti gli italiani sono ubriachi? Oh Brulli! Milan, basta con questa Lussana alle 6:30 di mattina, basta. Basta! Basta! Basta! Abbiamo messo sempre il rafforzativo il nostro Oscar Giannino, cara sì. Aurora. Era quello bello dannata, eh. Sì, gli anni d'oro. Ma allora vuoi dirci con chi ti sposi? Con il Memorust, sì, con il Memorust. Sì, niente, fa l'omertosa, caro Marione. Si può di non si può con dire. Con un Brianzolo, lo sai che ho il debole per i Brianzoli, con un Brianzolo. Ah, oh. Un Brianzolo di Cantù. Vabbè, però non diciamo chi è. Continuiamo questa. Tu Marione lo conosci? Sai no, chi è? Perché è famoso. Lo so. Ma io lo so chi è, ma non so, non si può dire. Se non lo vuole dire Aurora Lussana, dobbiamo aspettare. Leggeremo al comune, andremo a vedere le pubblicazioni. Sì. Vabbè. Già fatte. Guarda, ti diamo due. L'altra volta ci ha detto è un leghista. Beh, capirai. Vabbè, che... è un leghista. Finita la passione sulla questione, se mi diceva. Uno di Sel, vabbè, sì, effettivamente così è tutto scontato. Un leghista è abbastanza così. Allora, sentite questa ragazza del centro Obo, centro sociale di Bologna. Sì, sono quelli che hanno salutato anche l'arrivo di Salvini di recente. Certo. Sì. Con carezze, cioè. Eccolo qua, Obo, la ragazza intervistata al Corriere TV. Cosa pensiamo di quelli che hanno devastato la città, che hanno espresso un momento di rabbia, che hanno espresso un momento di conflittualità che di certo si sarebbe dato? Non si può pretendere di avere delle azioni che sono quelle che vediamo, che ci costringono a una vita di merda tutti i giorni e poi di non vederne espresse le conseguenze. Quello che abbiamo visto a Milano è stato un corteo di 20.000 persone e questo non può mancare. Che è condivisibile? Sì. Tu avresti fatto quello che hanno fatto loro? Sì, io comprendo quello che hanno fatto loro. Cioè, ma... Ma è recuperabile una così, Mario Di Nolfi? Cioè, perché è già abbastanza adulta. Ma che esista un pezzo di società che la pensa così non è meraviglia. Ma no, ma infatti, certo, mica vengono da Marte. Sì, esatto, non trovo... come il ragazzino scemo che hanno intervistato, no? Sì, che almeno poi ha chiesto scusa. C'è un segmento di società che la pensa così, per fortuna iperminoritario. Quando ero ragazzino io sparavo all'altezza uomo durante le manifestazioni, insomma non... La considero un'evoluzione fisiologica del sistema, tutto sommato in meglio, ecco. Per cui ricordo che quello che sparava altezza uomo, uno c'era pure immortalato in una fotografia, è stato premiato come capo di gabinetto e vice sindaco a Milano, era uno di quelli che andava in piazza e sparava così, insomma. Per cui io non ho una grandissima emozione da comunicare. Dico che se una società la costruisci sull'impatto e sul non credere mai in nulla, che ci sia un pezzetto di giovani nichilisti. No, il dramma è che questi credono perché snocciolava poi il precariato. La lezione ovviamente è imparata a memoria. Quelli che stavano con le mazze e i caschi non credono proprio in niente. Non credono proprio in niente. Voglio solo devastare. Nichilismo allo stato puro, che non mi meraviglia, diciamo così. È una cosa che tutto sommato c'è. E che andrebbe contenuta con misure d'ordine pubblico adeguate, perché quello che è incredibile è che noi, se tu vai a fare il giornale del 30 di aprile, noi scriviamo per filo e per segno quello che sarebbe accaduto, e qui non dobbiamo bere. Gli hanno lasciati fare, è stata la scelta della polizia di lasciarla fare. Questo è il passaggio interessante. Ma sentiamo un'amica dei centri sociali, Aurora Lussana, una che. No, sì, anche per me sono veramente una minoranza e una grande democrazia, una grande comunità democratica potrebbe anche tollerare una minima dissidenza. Sono talmente ridicoli, però nel senso che bruciare il furgoncino di una panettiera a Milano non credo che rappresenti la rivolta contro il sistema che li opprime. Quel giorno lì potevano andare a fare l'assalto, non so, una prefettura, simbolo del governo, piuttosto che andare direttamente all'Expo dove c'era Renzi, ministri. Cioè, sono i loro obiettivi che li rendono ridicoli. Cioè, quando tu... cioè, una prefettura invece si può saltare, tutto va bene. Ma nel senso, ma capisci che sono ridicoli anche negli obiettivi? Cioè, sfasciare la città. Hanno deturpato una zona anche. Com'è che ha detto, il mitico Mattia, che purtroppo porta il nome di mio figlio? Se non sono un brucio una banca, sei un coglione. Cioè il simbolo. Sono ridicoli in tutto, nel modo di agire, ma anche nei loro capi, se i loro capi ideologici sono questi ragazzetti qua. e anche, ripeto, negli obiettivi, perché non sono degni neanche di rispetto, perché assaltare quando hanno distinto fra le macchine dei ricchi. Comunque sono stati confermati in carcere, tramutate in fermo in arresto, anche se hanno detto avevamo la maschera perché ci serviva per lo smog. Lo smog! Beh, sì, Milano, effettivamente. Il problema sono quelli che non hanno saputo difendere Milano. Sì. I poliziotti, eccolo lì, l'attacco ad Alfano, l'attacco politico frontale ad Alfano da parte della leghista Aurora Lussana. Ma voglio concludere con questa notizia, caro Mariona Dinolfi, mi sa che devi iniziare a rassegnarti. Fai la squillo e a Rimini iniziano le partite IVA, l'Agenzia delle Entrate apre la partita IVA alle squillo. Il giorno, notizia, pagina 17, ora il fisco tassa il sesso in Riviera. Basta, scelta pragmatica, finalmente... un'apertura, che c'è? Ti sei... Finalmente facciamo lo stato pappone, dici, no, no, ma mettiamo in regola una lavoratrice o lavoratore del ci sesso. Prendiamo la stecca sulle prestazioni. Vabbè, ma che la stecca? Le tasse, si chiamano tasse. Lo stato pappo, anche il pappone prende quello. Le tasse, ecco. Offre un servizio, assicurazioni. Ma non ho capito, non è un lavoratore come un ristoratore, non è un lavoratore. Un lavoro non dignitoso, indegno per una donna. Anche Aurora è d'accordo, guarda. Assolutamente no. Oggi alle 12 comincia la campagna referendaria qua a Milano per l'abrogazione della legge Merlino. Via Francesco Pecorari 3, che è zona Duomo. Devo fare un confronto tra Aurora Lussana e Maria Dinolfi su questo tema. È vero che la Lega è a favore della legalizzazione della prostituzione? Lo facciamo presto. Sì. Aurora Lussana e Maria Dinolfi. Regolamentare chi sceglie così, liberamente. Così hai una donna. Mario, tu che dici che è non dignitoso per le donne? Sono schiave, le donne in quel sistema sono schiave. Ma non credo che Aurora Lussana voglia schiavizzare le donne, no? Sia contenta di schiavizzare. Lo sono, lo sai, se conosci un po' il fenomeno, sai. Ma di noi, chissà quante ne avrai conosciute anche te, di prostitute felici, di far felici. No, messa così era, suonava un po' strana. Felici, io una prostituta felice. Non anticipate il confronto che lo faremo. Aurora, la ricetta in 10 secondi, oggi che ci fa? No, oggi niente. Oggi con la storia che devo andare con la roba qui. Non si mangia. Non è un granché la ricetta. McDonald's all'Expo. Niente, McDonald's. No, passa al gorgonzola. Sto facendo sciogliere un po' di gorgonzola. Fai i dadini di gorgonzola, una sfumata di grappa. Puoi prendere già tipo la crema di latte e parmigiano reggiano. Sì, passa al gorgonzola. Vabbè, ragazzi, per essere due robe veloci, capito. Grazie, Aurora Lussana, Maria Dinolfi. Augurissimi per la partita di stasera. Era augurissimi. Ciao, ti lasciamo con Sheva. Sheva. Che fa gol, è finita, Mauro. Sheva contro Buffon. Vai. Va Sheva. Vai. Parte, vediamo. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Qui, cari ascoltatori, le 7:18 minuti. Allora abbiamo la legge elettorale dopo 500. Mi sono fatto prendere un po' la testa. 105 settimane decisive, ovviamente, tutte quante di questa legislatura. Avemus Italicum, rimane il conteggio per le province da abolire. Intanto parleremo anche di questo con il vicepresidente della Camera Giachetti, alle 8:40 sarà con noi. Parleremo anche però delle vicende di Milano, sono stati tramutati i fermi in arresti ieri convalidati e quindi rimangono in carcere 5 persone fermate durante gli scontri del 1° maggio. Ne parleremo con Mario Giordano, direttore del TG4, con uno degli avvocati delle persone fermate, dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. Siamo a martedì 5 maggio, i titoli sono tutti declinati sull'Italicum. L'Italicum è legge, ecco come si voterà, così il Sole 24 Ore in apertura. Per il Corriere della Sera, Renzi vince la sfida, l'Italicum è legge. Repubblica, l'Italicum è legge, cresce la fronda PD, Renzi mai più inciuci per governare. Per la Stampa, l'Italicum è legge, Mattarella firma. Il Messaggero, Renzi incassa l'Italicum, è legge. Il Fatto Quotidiano, Renzi Italicum, padrone d'Italia. Per il Giornale, Renzi, la legge sono io. Come vedete, con declinazioni diverse, ma l'Italicum, la legge elettorale che sostituisce il Porcellum, è sulle prime pagine come titolo principale per tutti i quotidiani, praticamente. Voglio però partire da cosa? Beh, come detto, i 5 arrestati che restano in carcere, i PM hanno fatto tutte le convalide dei fermi, Luigi Ferrarella racconta, e praticamente tutte le persone fermate hanno detto che non c'entravano nulla, sono state prese in pratica per sbaglio, sono dei capri espiatori, dicono tutti di non c'entrare niente con gli scontri del 1° maggio a Milano, di esservi rimasti coinvolti per caso, di essere vittime di scambio di persone da parte dei poliziotti che ha scritto di averli riconosciuti invece in flagranza di reato. Il giudice per le indagini preliminari, Donatella Banci Buonamici, non crede alle loro versioni e ieri ha convalidato l'arresto, disposto la misura cautelare della custodia in carcere per 5 tutti accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso delle armi improprie, lancio di oggetti e dal numero dei partecipanti. Anche questa è un aggravante. C'è chi dice ho raccolto solo un bullone e l'ho ributtato per terra. C'è chi dice nego di aver brandito un bastone contro la polizia. C'è chi dice sono stato preso per sbaglio. Succede spesso. Più certezza invece su quelli che sono stati fermati a Genova, dove il pubblico ministero Federico Manotti ha richiesto la convalida per resistenza, danneggiamento, lesioni, false generalità per 5 francesi considerati casseurs professionisti. E lì sembra un po' più chiara la vicenda rispetto a coloro che dicono no, non c'entriamo nulla, se stati presi per caso. Certo, il titolo che campeggia su tutti i giornali è la maschera, la usavo per andare in bicicletta. Anche la maschera anti trovata o antigas, o comunque una maschera che serviva, secondo i magistrati, secondo i poliziotti, contro il fumo dei lacrimogeni, invece spacciata per una maschera. Siccome a Milano c'è smog, si va in bicicletta e si tenta di proteggersi così. Vabbè, l'articolo più interessante, al di là di queste che sono le cronache giudiziarie tutti un po' uguali sui giornali, riguardo Milano, è lo trovate su Repubblica con Rodolfo Sala. Sapete che questa vicenda di Milano, con tanto di corteo di 20.000 persone per ripulire la città, con quei ripensaci sussurratigli nell'orecchio, con quelle pagine su Facebook nessuno tocchi Milano, tutto ciò potrebbe far desistere Giuliano Pisapia, che aveva annunciato non mi ricandido più a sindaco di Milano, e potrebbe farlo tornare sui suoi passi. Questo almeno scrive Repubblica. Cresce il pressing su Pisapia, anche se lui per ora dice no alla ricandidatura. Questo per ora. Tutti lì a dire che no, la ricandidatura non è assolutamente nelle cose, anche se loro così avrebbero voluto, ma secondo questo retroscena che trovate a pagina 21, Pisapia potrebbe in qualche modo ripensarci dopo il pressing che c'è stato per cercare di tornare a fare il sindaco. Staremo a vedere. L'abbiamo annunciato prima con Mariona Dinolfi e la notizia è abbastanza succosa, di quelle che sta a pagina 17 del Giorno e fa discutere, ed è questa, viene da Rimini, Grazia Buscaglia lo racconta. Fai la squillo? Serve la partita IVA. Sapete che il tema è quello della legalizzazione della prostituzione, tema annoso sul quale non si fa mai un passo avanti, ma solo grandi discussioni. Il Giorno dice che l'Agenzia delle Entrate a Rimini ha aperto di ufficio la partita IVA ad alcune prostitute. Sono state contestati loro dei conti molto corposi in banca e queste persone si sono presentate e hanno detto «Beh, faccio la prostituta, che dobbiamo fare?» E allora l'Agenzia delle Entrate ha aperto loro la partita IVA d'ufficio sotto la categoria altri servizi alla persona. E bando alle facili ironie, Peter Mescaver ride. Cosa c'è? Lorenzo Nespoli ride. Altri servizi alla persona. Questa è la categoria nella quale sono state inserite queste prostitute. Ora il fisco tassa il sesso in Riviera. Allora chiaramente, se l'Agenzia delle Entrate vuole le tasse, vuol dire che è un lavoro come il tutti gli altri? Questa è la domanda legittima che sorge su questo. Oh, torniamo con un personaggio che è stato anche nostro ospite, vale a dire Guido Veneziani. Chi è? È l'editore che si è messo in testa di far risorgere l'Unità. Aveva annunciato anche qui a questi microfoni 24 mattino che a metà maggio sarebbe rinata l'Unità. Siamo ormai quasi a metà maggio e chiaramente l'Unità non rinascerà, anche perché c'è il problema politico. E Guido Veneziani, intervistato dal Fatto Quotidiano da Alessandro Ferrucci, ora comincia a porlo questo problema politico, e cioè Renzi che non decide. Ma come? Perché l'Unità, sapete, è un quotidiano di partito e quindi deve decidere il PD. Ma come? Renzi, che ama apparire così sprint e impaludato. Non mi ponga domande imbarazzanti, risponde Guido Veneziani. La politica ama i tempi lunghi. Sì, ma io sono imprenditore, non sono abituato a questi tempi. Se mi danno l'ok in 25 o 30 giorni io torno in edicola. Ma ci vuole l'ok. Per esempio sul direttore. Renzi ha proposto Cooperlo come direttore. Io non l'ho mai detto. Cooperlo non è mai stato direttore di qualcosa. Io voglio uno di macchina, un uomo di macchina. Ma in questi mesi lei ha ricevuto qualche rifiuto su proposte di direttori, persone che ha incontrato? Neanche uno, e non sono uno di quelli disposti a concedere 10 colloqui. Poi sono girate tante balle, come nomi di giornalisti usciti su Dagospia come papabili direttori, nomi di persone che poi sono andate dai propri editori per chiedere un aumento di stipendio. Peccato che io non li avessi mai incontrati, non conoscevo neanche la loro esistenza. Insomma, Guido Veneziani a un certo punto, per far capire che si sta spazientendo da questa situazione, usa questa metafora: quando uno si sposa è contentissimo, ma dopo un anno di matrimonio ha la moglie con il mal di testa. Già, e al secondo anno già si separano. Non è detto, però ribadisco, se sbloccano siamo pronti. Come dire, fai presto Renzi, altrimenti anche Guido Veneziani si può stancare. C'è una novità importante, saltando sul Corriere della Sera, e riguarda la vicenda ormai interminabile dei due marò italiani in India. Danilo Taino racconta questa indiscrezione del Corriere della Sera ed è questa: caso marò, è ormai fallita la via diplomatica e allora l'Italia decide di ricorrere all'arbitrato internazionale. Il governo italiano, scrive il Corriere, ha deciso di procedere con l'arbitrato internazionale sul caso dei due marò. Risulta al Corriere che entro la metà del mese prossimo, probabilmente anche prima, l'Italia ritirerà la proposta fatta all'India per una soluzione diplomatica negoziata e comunicherà al governo di Delhi l'intenzione di procedere con un contenzioso per stabilire dove risiede la giurisdizione nella vicenda che coinvolge Salvatore Girone e Massimiliano La Torre, cioè dove andranno processati, in India, in Italia, come sostiene il governo Renzi, oppure in un paese terzo. Quindi via diplomatica fallita. Invece l'Italia punta all'arbitrato internazionale, una richiesta di contenzioso che dovrà essere presentata alla Corte Internazionale dell'Aia entro fine giugno. Dunque c'è una svolta, almeno dal punto di vista della strategia, sulla questione dei marò. Ma eccoci qui. Se state guidando, se siete in treno, posizione d'atterraggio d'emergenza. Se state guidando, l'invito è il solito: mani sul volante e tazzine del caffè bollente da appoggiare per l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. È quello di Eleonora Capelli, che trovate su Repubblica, pagina 7, riguarda la solita questione: spese loro, soldi nostri. Ora, riguardano le spese pazze in Emilia-Romagna. Ricordate che finì dentro anche un vibratore che è stato acquistato in un sexy shop. dalla, no, finito nella lista spese della consigliera Rita Moriconi, ma in realtà un suo collaboratore si disse: sono stato io a comprarlo perché volevo fare un regalo un po' bizzarro a un nostro amico. In ogni caso, 940.000 euro di spese contestate all'allora solo capogruppo Marco Monari, chiesto il processo per 16 ex consiglieri dell'Emilia Romagna. Ovviamente c'è sempre, oltre al sexy shop, ristoranti a volontà. L'accusa è la solita: peculato. L'inchiesta durata 2 anni, la traduciamo sempre così: spese loro, soldi vostri. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il giornalista decisivo. No, mi sembra giusto. Decisivo come le settimane decisive della legge elettorale. 105 e ce l'abbiamo fatta. Habemus Italicum. Habemus Italicum è fatta. Sì, certo, manca la firma del Presidente della Repubblica, tra poco vedremo, c'è tutto il dibattito anche su questo. 334 voti favorevoli, 61 contrari, 4 astenuti, le opposizioni che in larga parte hanno abbandonato l'aula. E l'Italicum è legge, via libera l'Italicum, opposizioni fuori, no da metà sinistra del Partito Democratico, sono 45-50 i Dem che hanno votato contro a questa legge. E che dire, già siamo a retroscena. Ovviamente Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 3, racconta ora la doppia tattica di Renzi per aggirare i dissidenti, cioè che fare ora con i dissidenti che si preparano alla battaglia al Senato, e cioè la riforma costituzionale con l'abolizione del Senato o la revisione del Senato, e lì la minoranza del PD potrebbe in qualche modo rialzare la testa. Renzi, non a caso, scrive il Corriere, ha deciso di far spostare ben oltre il test elettorale di maggio la calendarizzazione della riforma del Senato. L'ipotesi è che se ne discuta in luglio per cercare di, come dire, calmare le acque. Anche sul Messaggero il messaggio di Renzi è questo, racconta Alberto Gentili: ora dobbiamo recuperare un po' di buoni rapporti nel partito. È il metodo Renzi: prima la bastonata politica, ovviamente, ai dissidenti, cioè vi faccio vedere chi è più forte e vinco, e ora cercare di recuperare, tanto i tempi della politica sono così, si dilatano, il rapporto con la stessa minoranza in vista della prossima battaglia, la riforma costituzionale del Senato. Su Repubblica anche retroscena di Francesco Bei a pagina 2 e 3 è proprio questo, e già si apre la questione di Mattarella. Firmerà ora il capo dello Stato? Ci sono stati appelli di molti a dire la legge l'Italicum ha profili di incostituzionalità. Il capo dello Stato deve solo valutare questo, cioè vedere se un provvedimento è incostituzionale. Poi ci saranno eventualmente già i ricorsi annunciati e lì si pronuncerà la Corte Costituzionale, di cui peraltro Mattarella è stato un giudice e si è espresso come giudice della Corte Costituzionale nella bocciatura del Porcellum, la precedente legge elettorale. È anche un grande esperto di materia, avendo scritto il Mattarellum e quindi una precedente legge elettorale nel 94. Però secondo tutti Mattarella alla fine firmerà. Repubblica lo scrive: Mattarella rassicura il Premier, ci sono le condizioni per la firma. Premio di maggioranza eccessivo, peggio della legge Acerbo di Mussolini. Per Mattarella le cose non stanno così, scrive Repubblica, tanto che la Corte Costituzionale, nel bocciare il premio di maggioranza previsto dal Porcellum perché era foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione, aggiungeva che l'incostituzionalità derivava dal non aver previsto il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista vincente, e quella soglia del 40% nell'Italicum c'è. Quanto alle liste bloccate, i giudici costituzionali le cassarono solo perché troppo lunghe, tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza tra elettori eletti. Ma in questo caso le liste nell'Italicum saranno corte con i capi lista bloccati, e quindi i due profili di incostituzionalità visti nel Porcellum sono stati tolti nell'Italicum. Questa è la lettura, secondo Repubblica, per cui Mattarella firmerà. E secondo La Stampa firmerà oggi stesso. Ugo Magri lo racconta a pagina 3. Nessun dubbio al colle, Mattarella firmerà già oggi. Perché? Perché non vuole prestarsi a fare da testimonial per conto delle opposizioni. Certo, è un presidente di garanzia per tutti, di arbitro imparziale che non tifa né per gli uni né per gli altri, tantomeno si fa tirare per la giacca, scrive Ugo Magri. Se anziché mettere la controfirma Mattarella tenesse l'Italicum a bagnomaria, si scatenerebbe subito la propaganda degli anti-renziani. Direbbero, visto, anche l'inquilino del Colle nutre dei dubbi, altrimenti avrebbe subito promulgato. E allora ogni ora di ritardo finirebbe per ingigantire le attese, alimentando incertezze e fibrillazioni. Eccola qui la parola che più mi fa imbestialire. Salvo accertare alla fine che problemi non ve ne sono. Il Quirinale non ha nulla da obiettare sul piano della costituzionalità, unico terreno su cui Mattarella sarebbe legittimato a nutrire riserve. Dunque, scrive La Stampa, non avendo dubbi, Mattarella firmerà oggi stesso. Comunque, come funziona l'Italicum? Oggi il Sole 24 Ore ancora lo spiega molto bene. Le liste brevi, le parità di genere. Chi vince avrà 340 seggi su 630, sia che vinca al primo turno se supera la soglia del 40%, sia al ballottaggio tra i due partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. C'è lo stop al sistema delle coalizioni, c'è la soglia di sbarramento al 3%, se non prende il 3% non rappresenti nessuno in Parlamento. Se non nessuna lista arriva al 40%, c'è il confronto a due tra le liste che hanno ottenuto maggiori voti. Il territorio viene diviso in 100 collegi. Insomma, tutta la spiegazione la trovate a pagina 9 del Sole 24 Ore. Come funziona l'Italia e che farà la minoranza Dem? Certo, i messaggi sono: il Senato sarà un Vietnam, ma sono quei messaggi che si lanciano a più riprese. E poi che fa la minoranza Dem? Per ora fa incidenti veri e propri. Enrico Letta racconta Libero, ieri è stato coinvolto in un tamponamento, ha tamponato un motorino, cose che succedono. Libero, pagina 6, Letta tampona uno scooter in centro a Roma. Sì, il Libero un po' ironizza, il vigile gli avrà anche detto a caldo: Enrico, stai sereno. Vabbè, comunque, ironie a parte, c'è stata questa disavventura di Letta che a bordo della sua Lancia Delta di famiglia ha tamponato un motorino nel centro di Roma, nella ZTL, ieri, dopo aver accompagnato i figli a scuola. Vabbè, succede, c'è ovviamente chi si diletta nella lettura dei giornali, anche nel leggere in queste vicissitudini lo stato della minoranza del Partito Democratico. Comunque, certo, anche dall'altra parte la Forza Italia invece sono usciti dall'aula, a parte due o tre, a parte Saverio Romano, a parte D'Alessandro Verdiniano, per il resto ha retto l'imposizione del capogruppo Brunetta, che poi ha fatto un vero e proprio picchetto per cercare di capire chi, nonostante l'ordine di uscire dall'aula, si tentasse comunque di stare in aula. Due o tre l'hanno fatto, ma il dato di fatto è che Forza Italia almeno è stata compatta nel non stare lì. Ma certamente la vittoria politica di Renzi è da registrare. Certo, ora si sposta tutto sulla scuola. Oggi c'è lo sciopero della scuola, i prof in piazza, come titolano tutti i giornali, cortei in città, sindacati uniti. E il ministro all'istruzione Giannini, che sarà ospite poi di Giovanni Minoli alle 9, e dice: basta coi vecchi privilegi, usano la scuola per fare politica. Così intervistata dal Giorno da Silvia Mastrantonio, Stefania Giannini, ecco qua, dice: c'è la campagna elettorale, credo esista la volontà di fare della buona scuola una battaglia politica al di là dei contenuti. aggiunge anche Susanna Camusso, non ha neanche letto la riforma, a mio modo di vedere, torna su quell'attacco squadristi, quando aveva definito così coloro che l'avevano criticata. Lo squadristi, dice il ministro Giannini, non era rivolto agli insegnanti, mi riferivo al metodo e a poche persone che mi hanno contestato. Sulla maggioranza dei docenti diciamo che la considero silenziosa, meno attiva nel manifestare il proprio pensiero. Comunque ieri Il Sole spiegava bene come sarà l'assunzione a vari scaglioni dei precari. La scuola sciopera, c'è Giovanni Cocchi che è uno di coloro che ha incontrato Renzi dopo la festa dell'unità, che viene intervistato da Il Fatto Quotidiano, da Davide Marceddu, è uno dei leader dei COBAS della scuola a Bologna, e dice questo insegnante: mi sono alzato, gli ho preso le spalle a Renzi, l'ho guardato dritto negli occhi, gli ho detto: ricordati che hai giurato sulla Costituzione, compresa la libertà di insegnamento e tutto il resto. Questo ho detto a Renzi. Così parla Giovanni Cocchi, prof delle medie, 60 anni, 10 passati a difendere la scuola pubblica. Dice: dopo 35 minuti di colloquio gli abbiamo contestato tutto sulle assunzioni, sulla questione di tutti i punti della buona scuola. La distanza è rimasta immutata, non può essere accorciata da un colloquio, ma vedremo i fatti concreti in Parlamento. Intanto la riforma della scuola procede a passi spediti, Renzi vuole votarla entro giugno. Nel solito retroscena, Claudia Voltattorni sul Corriere della Sera dice a pagina 19: Renzi, non ci faremo intimidire e andiamo avanti. Il metodo Renzi è così. Piaccia o no, Mauro Meazza, buongiorno, eccoci buongiorno, qua. Buongiorno, buongiorno. Beh, andiamo avanti, ma correggiamo qualcosa. Leggo sul Sole 24, sì. Meno potere al preside manager, quindi qualche cosa in realtà quel colloquio lì di cui parlavi prima deve avere ottenuto, no? Perché c'è, vabbè, oggi vediamo come va lo sciopero, poi ci sarà appunto questa correzione in corsa per la buona scuola, e poi c'è il temuccio, non so se si può dire temuccio, cioè il piccolo temino. Volevo addomesticarlo con un vezzeggiativo, temino o temuccio che sia, del rimborso per le pensioni. A quanto sia salito di conti, 15-16 no, miliardi, 13? Non so, mi sembra 8, che ormai 9. Le stime vadano nelle più varie direzioni, però oggi appunto leggevo da Marco Rogari sul Sole 24 Ore qualche momento fa, si fa strada l'ipotesi di un rimborso a scaglioni, cioè sì. Si rimborsa integralmente una quota, poi invece una parte solo via via che si sale. E mi sembra anche, Mauro, da dire, si farà un decreto legislativo per frenare i ricorsi subito. Un decreto legge per frenare subito, esatto. I ricorsi, c'è tempo fino alla fine del mese praticamente per intervenire, ma si immagina di intervenire rapidamente una volta definito anche l'ammanco, anche perché tu sappi, caro Alessandro, che Bruxelles ci guarda, e sai che Bruxelles ti guarda. Più te, secondo me, guarda, sì. Più te che me. Sì. Bruxelles ti guarda e vuole capire questi soldini da dove li prendiamo. Quei due eurini? Io ho sempre quei due eurini. Di più, loro signori, mi scuseranno. Ma che effetto avrà sul nostro rapporto deficit PIL? Quindi Bruxelles ti guarda, stai attento. Non scherzare, perché poi lì si rischiano anche delle misure più severe. Quindi vediamo insomma come va avanti questa vicenda delle pensioni. Intanto vorrei inaugurare una mia personalissima rubrica, la notizia da dita incrociate, cioè facendo gli scongiuri, ogni tanto ci sono delle notizie di ripresa. Ad esempio, le vendite delle auto sono in crescita, addirittura un più 24%, però lo dico con le dita incrociate. Non guidando, ma non le mani incrociate, mi raccomando. No, le dita incrociate, notizie dita incrociate, sono in miglioramento anche sull'anno, più 13%, lo scopri leggendo le pagine di Imprese e Territori oggi sul Sole 24 Ore. Poi, ad esempio, per l'avvio della quotazione in borsa della Ferrari, previsto per il terzo trimestre, quindi sono sempre automobili, ma certo di un certo livello. Puoi metterti tu. Sì, se me la regalano sicuramente. Per l'avvio, dicevo, si prospetta un buon andamento, ne riferisce Carlo Festa, addirittura domanda che potrebbe superare di molto l'offerta, ne parla Carlo Festa nelle pagine di Finanza. E poi, attenzione, la revisione dei veicoli aziendali, perché si sono allungati spesso i tempi di noleggio e quindi uno potrebbe dimenticarsi di questa norma. Ne parla, te ne parla Maurizio Capri, sì. Indovina un po' dove. In norme e tributi. Esattamente. E allora con queste tre notizie tutte intitolate dal mondo dell'automobile alle quattro ruote, che altro posso dirti se non traffico? Ho quattro anni, non so leggere e non rimane accolto il San Domino. Oh, insomma, che diamine. Mi sembra giusto. Allora, vogliamo andare in Texas, dove l'altro ieri o ieri mattina, insomma, fuso orario permettendo, nella notte tra ieri, tra l'altro ieri e ieri, c'è stato che cosa? Questo episodio che il Foglio mette in prima pagina, piombo sul Charlie Hebdo del Texas. C'è stato un tentativo di colpire alcune persone che stavano organizzando un contest, vogliamo così, di vignette su Maometto. Racconta Mattia Ferraresi in prima pagina del Foglio. Non puoi disegnarmi, grida Maometto brandendo una scimitarra in faccia al disegnatore che lo sta ritraendo. È proprio per questo che ti disegno, è la risposta beffarda del vignettista. Ed è questa vignetta, quella di Bosch Faustin, che ha vinto il concorso intitolato il First Annual Muhammad Art Exhibit and Contest. Siamo a Garland, sobborgo di Dallas, questo contest che ha visto la presenza anche di Geert Wilders, un leader politico olandese molto critico nei confronti dell'Islam, e che poteva però questo contest finire nel sangue, perché due attentatori, uno identificato come Elliot Simpson, trentenne di Phoenix, che alcuni anni fa tentò già di unirsi alle brigate jihadiste di Al-Shabaab in Somalia, ha cercato di colpire insieme a un complice, sono stati entrambi uccisi prima che potessero fare danni. Anche Guido Olimpio sul Corriere della Sera dedica pagina 13 a questi due terroristi fai da te. Elton, il jihadista fai da te che ha beffato l'FBI via web. Simpson, 30 anni, originario dell'Illinois, trasferito a Phoenix in Arizona, è rimasto sui radar degli investigatori per un decennio riuscendo a beffarli, un convertito che ha imitato i Ghaziz, cioè i combattenti del profeta. Al suo fianco c'era Nadir Sufi, 34 anni, compagno di appartamento, titolare di una ditta di pulizie e tappeti, in apparenza non due guerrieri. In un tweet il militante dell'ISIS Abu Hassan al-Britani ha rivendicato così: i fratelli in Texas non avevano alcuna esperienza, però hanno difeso l'onore di Maometto. Insomma, nuovi attacchi alla libertà di satira, questa volta in Texas. Torniamo in Italia, l'Expo parla, il commissario unico Sala, intervistato dal Corriere della Sera da Elisabetta Soglio, fa un primo bilancio, vittoria sui numeri, i contenuti certo sono da migliorare. Prima dell'inizio di Expo il partito degli scettici si era rafforzato, dice Sala, io avevo garantito due cose, che avremmo finito e sarebbe stata un Expo per le famiglie. Abbiamo venduto 11 milioni di biglietti, il 40% dei 24 milioni che servono per il pareggio di bilancio. Non faccio cifre su quanti ingressi i primi giorni, perché poi la gente strumentalizza. Di sicuro abbiamo venduto appunto il 40% dei biglietti. In genere il segretario del Bureau International des Expositions, Vicente Losertales, ha detto che prima dell'apertura si vende generalmente il 10% dei biglietti. Noi ne abbiamo venduti il 40%. Poi Sala dice un problema è quello dei prezzi di quanto costa mangiare all'Expo. Effettivamente dobbiamo lavorare sui contenuti e stiamo verificando anche padiglione per padiglione e spazio per spazio. Non possiamo imporre nulla, ma consiglierei di tenere i prezzi a livello accettabile. Non conviene agli operatori, rischia di confondere i visitatori rispetto al tema. Anche perché il Messaggero fa notare che al padiglione giapponese un piatto costa 110 euro. Questo è uno scontrino che circolava anche sulla rete. 110 euro. Vi segnalo due articoli per due candidati. Non c'è pace mai per Vincenzo De Luca, candidato PD in campagna alle regionali della Campania, appunto. Carlo Aveta, candidato con lui, considerato un mussoliniano, dice Repubblica: questo Carlo Aveta in passato ha detto «i gay mi fanno schifo». Si può ancora dire ciò in un paese libero e democratico? I gay mi fanno schifo, candidato con De Luca. E il Fatto Quotidiano si concentra su un altro candidato con De Luca, Enrico Maria Natale, il cui padre è stato arrestato due volte per camorra a Casal di Principe. Fabrizio D'Esposito, pagina 4 del Fatto Quotidiano, si concentra una pagina su Enrico Maria Natale, candidato in campagna insieme a De Luca, ha un padre arrestato due volte per camorra. Il Fatto Quotidiano. Siamo però al momento della carta costa, e allora alzo la testa perché siamo in diretta anche su Periscope, grazie a Lorenzo Nespoli che mi sta filmando ed è qui. Non vince Charlotte Elizabeth Diana, non vince. La carta costa oggi va a mezza pagina del Corriere, del Giornale. Andrea Cuomo sul Giornale racconta la rivincita dopo 50 anni da grasso del burro. Il burro, 50 anni da grasso, ma il burro si prende la sua rivincita. Ma chi se ne frega? BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Quando sono le 8 e 17 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sicuramente il dato politico, tutti i giornali titolano così, è che Habemus Italicum. E ne parleremo, alle 8.40 avremo ospite con noi Roberto Giachetti, che è vicepresidente della Camera e deputato del Partito Democratico renziano. Tutti ora a capire se Mattarella firmerà. Il ministro Maria Elena Boschi è soddisfatta perché dice: abbiamo mantenuto la promessa. Missione compiuta. Il governo ha mantenuto l'impegno preso con i cittadini. La legge elettorale è il simbolo di un governo che non si limita a predicare le riforme, ma le fa sul serio. Ma questo più avanti. Vogliamo rimanere sulla questione degli scontri del primo maggio, perché ieri ci sono state le convalide dei fermi delle 5 persone che sono state pizzicate per strada. Dicono di fatto di non avere fatto nulla di quello che viene contestato loro. Per esempio, voglio salutare uno degli avvocati, l'avvocato Paolo Antimiani, che difende una delle persone fermate. Buongiorno, avvocato Antimiani. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Lei difende una signora, Heidi, di 42 anni, origini tedesche ma italiana, che, alla quale è stata contestata anche lei, il lancio di oggetti, uso di armi improprie, resistenza a pubblico ufficiale. Che dice? Che è un capro espiatorio? No, capro espiatorio no, semplicemente la ragazza dice che non è stata coinvolta negli scontri, non ha partecipato agli scontri, la condotta che le viene contestata lei la respinge. Speriamo che ci siano dei filmati che chiariscano la situazione. Lei ovviamente difende solo questa ragazza. Sì, solo lei. Ci sono 5 persone, però più o meno dicono tutti la stessa cosa, cioè hanno preso delle persone sbagliate, non c'entriamo nulla. E com'è questa cosa? Allora, io le posso rispondere per quello che riguarda la mia assistita. Sì. L'impressione è che nel fuggi-fuggi generale, alla fine del corteo e alla fine della devastazione, probabilmente la ragazza è stata coinvolta senza essere partecipe. Questa è la mia impressione. Cioè l'impressione che hanno preso qualcuno perché dovessero portare a casa, la uso brutalmente, un trofeo da parte delle forze dell'ordine, no? Qualcuno da prendere. No, non direi così. Per quello che riguarda la posizione della mia assistita, secondo me c'è un errore di persona, uno scambio di persona, e infatti mi auspico che dei filmati, ne abbiamo viste decine in questi giorni, possano far emergere la verità. Io voglio salutare Mario Giordano, direttore del TG4. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi tu ne scrivi su Libero, ma il titolo che più ha preso le prime pagine dei giornali è questo: la mascherina era per lo smog. Non è il caso della persona assistita dall'avvocato Antimiani, ma di un'altra persona. Una maschera nera trovata e c'è lo smog a Milano. Ho usato questo, giudice. E quindi, però, vabbè, a parte un commento su questo, ti chiedo, sai che c'è l'idea per molti di dire fate pagare i centri sociali, Maroni per esempio chiede questo, ti pare possibile una richiesta del genere? Sì, allora lasciami dire una cosa sul primo tema, evidentemente la responsabilità individuale va provata, bisogna essere garantisti fino alla fine, quindi se uno non ha fatto niente e si dimostra che non ha fatto niente, ci mancherebbe altro. Detto questo, io mi stupisco che con tutto quello che è accaduto sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi delle telecamere, ci siano solo 5 fermati. Solo 5 fermati è uno scandalo, io mi aspetto 100 fermati, sarei aspettato 100 fermati, 150 fermati, 200 fermati, solo 5 fermati è già uno scandalo di per sé. Pertanto scandalose sono le dichiarazioni di alcuni colleghi dell'avvocato che ieri all'uscita appunto hanno dato giustificazioni che non sono quelle che ha dato lui in questo momento, che sono legittime e rispettabili, ma appunto la mascherina, avevano la maschera antigas perché hanno paura dello smog a Milano, oppure un bullone, ha lanciato un bullone, no? Ci ha inciampato dentro, volato per caso, ci mancava solo che dicesse che ho la Molotov in mano perché l'ha scambiata per un gelato al pistacchio, e poi avevano detto tutte. Ecco, questo io lo trovo veramente indigno. La seconda cosa, io penso che sì, che sia legittimo far pagare i danni, non a ovviamente chi li ha subiti, ma neanche ai contribuenti, sì, ma a chi ha organizzato la manifestazione, perché chi organizza la manifestazione, anche se non è una manifestazione pacifica per la gran parte della manifestazione, intanto una manifestazione pacifica non è stata, perché come abbiamo visto tutti i Black Bloc hanno potuto svolgere la loro attività all'interno di quel corteo, sono stati protetti, si sono cambiati all'interno di quel corteo. Seconda cosa, esiste quella che nel calcio si chiama la responsabilità oggettiva. Se un tifoso distrugge qualcosa, la società paga. Quindi chi ha organizzato una manifestazione dovrebbe pagare. Dovrebbe pagare. Beh, questo è interessante. Tra l'altro il governatore Maroni ha detto venerdì in giunta, cioè Regione Lombardia, formuleremo una proposta di richiesta danni. Voglio girare questa idea tua e Mario Giordano a un altro ospite che è Mirko Mazzali, è stato già con noi, avvocato, consigliere comunale a Milano, faceva parte di quel Legal Team Italia, che poi, avvocato Mazzali, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. In realtà non è intervenuto, nel senso che poi le 5 persone fermate hanno avvocati che non mi risulta. Sì, no, non è nessuno di... Non facciano parte del Legal Team Italia. No, ha sentito, ha sentito però la proposta, l'idea, far pagare gli organizzatori, cioè c'è stata una manifestazione, si sono infiltrate delle persone, evidentemente non sono state fermate neanche dagli organizzatori, rispondano con la responsabilità oggettiva. Vabbè, la responsabilità oggettiva non c'è nel nostro ordinamento dal punto di vista penale né dal punto di vista civile. Io credo che come in tutti i casi vanno applicate le norme del nostro ordinamento, se no faremmo, come dire, qualcosa di diverso da quello che deve avvenire in realtà normalmente. Il paragone con col calcio, che io sento anche rispetto al DASPO, è un paragone che giuridicamente non è corretto, nel senso che la libertà di manifestare la propria opinione, il proprio pensiero, senza evidentemente commettere reati, è garantita dalla Costituzione, che non prevede invece la libertà di andare allo stadio. Questa è la differenza. Se mai, da quello che ho visto mi sembra che sia da escludersi una responsabilità dei manifestanti dal punto di vista penale o dal punto di vista civile in quello che è successo. Se mai venisse accertata questa responsabilità qui, allora le norme prevedono la possibilità di risarcimento del danno, se no vuol dire non è previsto. Altrimenti no, cioè o pagano quei 5, se venisse accertato che davvero hanno fatto qualcosa e potrebbero pagare. Beh, o altrimenti quei 5 peraltro non sono imputati, mi sembra di aver capito, di devastazione, quindi non potrebbero in ogni caso giuridicamente pagare per le macchine. No, sono imputati di resistenza a pubblico ufficiale per aggravato quello, dall'uso di armi improprie, lancio di oggetti e numero di partecipanti. Questo è il reato contestato. In questo caso qui venisse accertata la penale responsabilità, pagheranno per... la condotta che... Sì, la sensazione è che paghi adesso Giordano, non è che voglio utilizzare la frase che si usa di solito, che paghi sempre pantalone, ma anche l'idea di far pagare i centri sociali, che ho sentito da Maroni, sinceramente la vedo un pochino con pochi appigli giuridici. Come si fa ad andare a dire ai centri sociali pagate voi, Giordano? Semplicemente che le leggi si cambiano, io credo nella legge del buon senso prima di ogni altra cosa. Il buon senso mi dice e che se io organizzo una manifestazione devo garantire il pacifico svolgimento di questa manifestazione, mi devo assumere le mie responsabilità, perché nel nostro paese esistono ovviamente tutti i sacrosanti diritti, ma esistono anche dei doveri, ma quali? Quelli di non incendiare le auto per strada e di non sfasciare le vetrine. Per cui se io mi assumo, ripeto, l'organizzazione, la responsabilità dell'organizzazione di un corteo, mi devo assumere qualsiasi cosa. Io mi assumo la responsabilità di un telegiornale. Se un mio giornalista stasera, andando in onda in diretta, dice una stronzata, io pago. Ed è giusto che sia così, anche perché ho la responsabilità di quello che lui dice. Chi organizza una manifestazione deve pagare. Dopodiché, seconda cosa, sempre per le leggi che si devono cambiare, io sarei anche per non fare più queste manifestazioni nel centro delle grandi città, nel centro di Milano, perché il diritto di manifestare il pensiero è sacrosanto, ma non c'è scritto nella Costituzione che uno manifesta il proprio pensiero. Vado a manifestare in un paratone a Brugherio, a Vimodrone, facciamo un grande paratone, diamo anche la diretta televisiva, perché tutto deve avere la massima risonanza. Ma perché, dove sta scritto? Salutiamo tutti gli amici di Brugherio e Vimodrone. Ovviamente non vi vuole mandare i black block, Giordano. Nelle aperte campagne. Manifestino nelle campagne. Amo la Brianza, vivo in Brianza. No, anche perché adesso vi devo far ascoltare che cosa dice una rappresentante dei centri sociali di Bologna. Ma prima vorrei tornare anche un attimo dall'avvocato Antimiani, che ripeto difende una delle 5 persone fermate. Avvocato Antimiani, le hanno contestato anche, c'è la possibilità insomma che paghi i danni la persona che dovesse essere accertato tutto, ovviamente? Ma direi di no, allo Stato direi di no, no. Intanto che non le viene contestato alcun reato di danneggiamento o di devastazione, no. No. Come ha detto il collega Mazzali, uno risponde del reato per il quale è imputato. Ma perché non è stata contestata la devastazione? Era in ipotesi, tra le varie ipotesi? No, direi di no, anche perché sembrerebbe dalle accuse che... alla mia assistita non vengano contestate delle condotte. Cioè lei ci sta dicendo, avvocato, che non è stato preso nessuno accertato che ha distrutto la banca, incendiato la macchina, allora, perché per non è stato contestato questo tipo di reato? No. Per quello che riguarda neanche gli altri. No, neanche la condotta altri. Che viene contestata alla mia assistita esclude la partecipazione a devastazione. Ma anche gli altri, leggendo i giornali, li avrà visti, anche lei avrà parlato, sì, certo. Non vedo questa contestazione a nessuno. Non viene a nessuno dei fermati contestata la devastazione. Io ribadisco, mi soffermo sulla mia assistita, non le viene contestata alcuna condotta di questo genere e quindi non pagherà nulla, cioè, visto che non è contestato il reato, che cosa deve pagare? Dopodiché, se ci sarà un accertamento di responsabilità relativa alla resistenza, è un'altra questione. Legittima sarà la eventuale richiesta danni dell'ufficiale. Vabbè, insomma, sì, ma questa è una questione, se vuole, privata tra un agente di polizia che si è sentito aggredito e dice così, e poi deciderà il giudice. Però ci sta dicendo l'avvocato che nessuna delle persone fermate, o meno la sua no, ma anche le altre, leggendo i giornali, a nessuno è stato contestato un episodio di quelli di incendiare la macchina, distruggere una vetrina, spaccare un negozio, buttare una bomba a Molotov. Quindi non è stato fermato nessuno di questi qui. E qui si potrebbe anche parlare, come ha detto Mario Giordano, del fatto che la polizia ha veramente deciso di non farlo. Vi faccio sentire però questa voce, avvocato Mazzali, ascolti bene. Rappresentante del Centro Sociale di Bologna, Obo, è una ragazza, al Corriere TV. Cosa pensiamo di quelli che hanno devastato la città, che hanno espresso un momento di rabbia, che hanno espresso un momento di conflittualità che di certo si sarebbe dato? È condivisibile. Sì. Tu avresti fatto quello che hanno fatto loro? Sì, comprendo quello che hanno fatto loro. Allora, avvocato Mazzali, poi per carità, le responsabilità penali sono sempre appunto soggettive, ognuno deve rispondere di quello che fa, ma capisce che quando sento il rappresentante dei centri sociali dire hanno fatto bene, condivido, giusto così, poi dopo nasce quel facciamo pagare i centri sociali. E guardi, io ho letto sul web e ho sentito dichiarazioni dei centri sociali di certo molto critiche, molto dure rispetto a quello che è avvenuto. Oggettivamente, soprattutto gli organizzatori sono i primi probabilmente a dover essere arrabbiati del fatto che una manifestazione pacifica, gioiosa come era quella nella parte iniziale del corteo si sia trasformato in quello che abbiamo visto, per cui oggi noi, ma non solo noi, dal primo maggio in avanti nessuno sta più parlando della protesta No Expo, stanno tutti parlando giustamente dal punto di vista, come dire, dei mass media, delle vetrine rotte. I primi sconfitti sono proprio i pacifici organizzatori, i pacifici manifestanti. Se poi qualcuno, come dire, ritiene che questi atti abbiano una valenza rivoluzionaria, io non so cosa dire. A me sfugge il senso. Sfugge il senso di questo tipo di... Ma non solo a me, immagino, credo. No, ma alla stragrande maggioranza di persone che hanno un attimo di senno sfugge il senso di tutto quello che è successo. Resta dire che il prendersela con i centri sociali, secondo lei, è sbagliato. Sarebbe come prendersela con tutti i tifosi se succede qualcosa allo stadio. Non so, quando i tifosi di una squadra sfasciano... Beh, guardi che c'è gente che dice chiudiamo, c'è gente che dice fermiamo il campionato, c'è gente che dice... Nessuno dice mai paghino tutti i club di quella... No, però quando si dice che ne so, chiudiamo lo stadio, è chiaro che si paga per 100 persone di violenze, violenti, si pagano anche persone normali. Io non sono neanche d'accordo, comunque, come dire, chiudi uno stadio perché qualche tifoso... Io credo che se noi in tutti i casi, anche quelli, come dire, in questo caso qui più forti, applichiamo le norme del codice, quelle che ci sono, poi ha ragione il direttore Giordano, lui dice potrebbero essere cambiati, io non sono d'accordo, però se abbiamo la forza di applicare le norme del nostro ordinamento, facciamo tutto una bella figura. Una bella figura. Il dato di fatto, direttore Giordano, per concludere, è che, come ci ha detto l'avvocato Antimiani, nessuno di fatto pagherà per questi incendi, devastazioni, perché non hanno fermato nessuno a cui è contestato nulla di ciò. Sì, a parte questo che trovo abbastanza scandaloso, come dicevo all'inizio, anche perché ho visto che il giorno dopo la polizia a Bologna ha caricato dei manifestanti, su cui non sono d'accordo, su una cippa lippa di quello che dicono, cioè i precari, ma che va detto stavano manifestando onestamente a volto scoperto, senza armi in mano, e la polizia li ha caricati, c'è stata anche un'anziana ferita, mentre invece il giorno prima c'erano gli uomini con i caschi eccetera. Hanno deciso così, e la polizia ha lasciato fare. Sinceramente, questo stato forte con i deboli e deboli con i forti a me non piace. Dopodiché ribadisco che il finale di questo, applicando perfettamente le norme che esistono, è che abbiamo lasciato un pomeriggio intero la città di Milano nelle mani di delinquenti criminali che potevano fare quello che volevano. Il ministro dell'interno dice esultiamo perché non c'è stato il morto, esultiamo perché non hanno raso al suolo il Duomo, esultiamo perché non hanno appiccato cosa a Santa Maria delle Grazie, esultiamo, festeggiamo perché è andata benissimo, perché Milano è stata devastata e perché alla fine i cittadini onesti e che pagano le tasse pagheranno i danni fatti da questi signori, perché nessun altro paga. Se queste sono le norme, io non ci sto e dico e ribadisco, troviamo delle norme diverse. Ci sono, l'omesso controllo, citavo prima ancora di detto, esiste il reato di omesso controllo, perché deve esistere per me che faccio il direttore e non deve esistere per chi organizza una manifestazione? E questa è una domanda sulla quale effettivamente o si cambia però la legge oppure rimane così, e l'idea e la sensazione che pagheremo noi o pagherà Pantalone è una sensazione abbastanza diffusa e concreta. Ringrazio tutti, Mario Giordano, direttore del TG4, ringrazio Mirko Mazzali, che è avvocato e consigliere comunale di SEL a Milano, e l'avvocato Paolo Antimiani, che difende una delle persone fermate e arrestate dopo gli scontri del primo maggio. Dopo la pubblicità, Habemus Italicum, lo abbiamo detto, avremo il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti del Partito Democratico ai nostri microfoni. eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:37 minuti. Allora, come abbiamo detto da ieri, Habemus Italicum è il titolo forse più gettonato. Sapete che io contavo e conto anche le settimane ironicamente decisive per la riforma elettorale, e qui mi fermo: 105 settimane decisive di questa legislatura, e non ho voluto affondare negli anni precedenti. Rimane la questione dell'abolizione delle province, ma una cosa per volta. Intanto voglio salutare il vicepresidente della Camera del Partito Democratico, Roberto Giachetti. Ben ritrovato e buongiorno, Giachetti. Grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Giachetti, che è uno che ha fatto battaglie in tempi non sospetti contro il Porcellum, no? Ricordate gli scioperi della fame, ha fatto anche per volere una legge elettorale. Quindi sarà felice, ovviamente, Giachetti, ma è felice anche se è arrivata così, con un percorso molto tormentato, con le opposizioni che lasciano l'aula, con 50 del partito suo che votano contro? Ma guardi, io intanto la ringrazio, perché è tra le poche persone che ricorda che mi sciopero della fame non era perché si facesse la legge che a me piace e piace di tutti, che è Mattarellum, ma perché si facesse una legge proprio in ragione di tutte quelle chiacchiere che ogni settimana era la settimana decisiva e ci abbiamo passato 2 anni. Dopodiché, purtroppo, io registro che questa è la fotografia della realtà. Cioè, se noi non abbiamo cambiato una legge elettorale per 10 anni, è perché gran parte di coloro che ieri sono usciti dall'aula dopo che avevano votato al Senato lo stesso testo, che hanno urlato contro, in realtà non la volevano fare, cambiare una legge elettorale. Diciamocelo francamente, quella che dava la Consulta dopo aver annullato il Porcellum, sì, era una legge ovviamente che andava benissimo per tutti i partitini che vogliono, dal loro punto di vista comprensibilmente, avere un potere di ricatto perenne su qualunque maggioranza di forma, e quello è un proporzionale puro, quindi lei sta dicendo in realtà non volevano cambiare nulla, non volevano cambiare. A lei le pare normale, scusi, che dal punto di vista proprio materiale, che un partito che ha scritto questa legge elettorale, l'ha votata al Senato esattamente nel testo in cui la votavamo oggi alla Camera, e che alla Camera esce dall'aula dichiarando che c'è quasi un colpo di Stato? È chiaro che è la politica che impazzisce. Perché? Perché è arrivato qualcuno, e un partito in particolare, il Partito Democratico nel suo complesso, che ha detto basta Melina, una legge la facciamo. Vi accusano di averla scritta all'inizio con Berlusconi, il famoso patto del Nazareno. Non accusano, l'abbiamo scritta con appunto Berlusconi. È questo che quindi non è che è stata scritta con il PD. Ma perché gli altri non erano disponibili? Perché se lei si ricorda, Renzi mandò una lettera a tutti i segretari di partito indicando 3 ipotesi, il Mattarellum, lo spagnolo e questo qui. L'unico che rispose fu Berlusconi, salvo il fatto che poi, mi dica lei, perché fu eletto Mattarella, Berlusconi ha deciso che questa legge era diventata incostituzionale. Però la politica va così. Beh, lei ha citato Mattarella e il Mattarellum, voglio dire, c'è proprio al Quirinale colui che l'ha scritto e colui che è uno dei massimi esperti, colui che da giudice costituzionale bocciò anche il Porcellum, e colui a cui tutti guardano. Oggi la stampa dice firmerà oggi stesso, proprio per non dare spazio a, come dire, a lasciare il provvedimento a bagnomaria. Però ci sono appelli a non firmare al Capo dello Stato. Secondo lei come finirà? Ecco, guardi, proprio perché io ritengo sbagliatissimi gli appelli sia a firmare sia a non firmare al Capo dello Stato, io non dirò nulla. L'unica cosa che posso dirle è che sono sicuro che la decisione che prenderà Mattarella sarà una decisione autorevolmente saggia, se non altro perché, per l'appunto, come lei ricordava, è una persona che con questo argomento ha avuto a che fare più volte, prima quando ha fatto la legge elettorale che è stata cambiata col Porcellum, poi quando in Corte Costituzionale, come lei ha detto, era presente. Mattarella ha sicuramente tutte le carte per poter decidere, e non sarò certo io a chiedere che lo faccia in un modo o in un altro. È chiaro che io auspico che la legge sia che venga firmata, chiaramente. Questo Italicum, Giachetti, è frutto del metodo Renzi, cioè non guardare in faccia a nessuno? Guardi, purtroppo le dico che questo Italicum, quello 2.0, è frutto del metodo Renzi di guardare troppo in faccia agli altri, perché questa legge per me è peggiorata rispetto alla prima versione. Io ritengo che l'inserimento delle preferenze sia il danno più grande di cui pagheremo un prezzo negli anni prossimi, esattamente come dovemmo tornare al referendum per abolire quelle che c'erano negli anni 90. Perché le preferenze portano... Perché le preferenze fanno lievitare i costi della politica, e inevitabilmente sarà un problema di come ottenere i voti. Lo sappiamo perfettamente come funzionano le cose. D'altra parte, basta che guardiamo tutti gli ultimi scandali che ci sono stati nelle amministrazioni comunali, regionali, è del tutto evidente. Però è stata scelta di fare questa cosa perché? Perché la minoranza interna e le opposizioni chiedevano che non ci fossero collegi piccoli plurinominali, ma che fossero introdotte anche le preferenze. È stata trovata una via di mediazione, il primo fisso e gli altri con le preferenze. La soglia per entrare è scesa dall'8 al 3%. Doveva essere più alta, lei avrebbe voluto più alta per io togliere partiti. Io personalmente l'avrei preferita più alta, però è un'altra cosa sulla quale, su richiesta della minoranza interna e delle opposizioni, perché non ci nascondiamo che Sell è ben felice che la soglia è scesa dall'8 al 3%, tanto per dirgliene una. La soglia per il premio di maggioranza è nata al 35 al Nazareno, è passata al 37 alla Camera, è diventata al 40%. Cioè, quindi lei dice concessioni ci sono state, non ci vengono compresa quella, se lei mi consente, che oggi sui giornali viene evidenziata questa cosa, di accettare su richiesta della minoranza come punto massimo di mediazione che avrebbe dovuto dare il via libera definitivo alla legge in prima lettura, di togliere l'articolo 2 di questa legge, che era quello che prevedeva che questa legge valesse anche per il Senato qualora non si fosse abolito il Senato. Adesso ci troviamo una legge che vale per la Camera e non si sa che cosa accadrà della riforma costituzionale, non vale per il Senato. Ecco, infatti, riforma costituzionale, qui tocca un punto, le faccio ascoltare, lì avete due problemi, i problemi delle opposizioni si sa, ma un problema anche interno del partito. Le faccio ascoltare Brunetta è sicuro, senta. Vittoria di Pirro, quella di Renzi e del suo governo. Con questi voti al Senato la riforma costituzionale non passerà mai. Allora, vabbè, Brunetta si dice certo così. Non avrete i voti perché se quelli del partito che hanno votato no, i bersagnani per intenderci, al Senato manterranno questo no sulla riforma, lì i voti, i numeri sono diversi e non ci saranno, e quindi non ci sarà la riforma del Senato e quindi crollerà tutto. Questo è lo scenario di Brunetta. Il fatto che Brunetta, diciamo, è un po' estruso nel suo... ci ha detto che ci sarebbero state 7 manovre correttive e non ce n'è mai stata nessuna fino ad oggi. Quindi, diciamo, Brunetta non ne ha azzeccata una e mi auguro che continui a non azzeccarne. Non v'è dubbio, però non possiamo nascondercelo, che gli equilibri al Senato sono molto più delicati, perché non c'è dubbio che la legge elettorale al Senato è passata perché Forza Italia per l'appunto l'ha votata, perché sennò con i 24 che non l'avevano votata del Partito Democratico la legge non sarebbe passata. E quindi... Questo problema si ripone sicuramente anche al Senato. Non dimentichiamoci però che la riforma costituzionale è una riforma che è stata anch'essa votata e scritta non soltanto dal Partito Democratico e dalla maggioranza, ma anche da Forza Italia. Io non so se al Senato ci sarà complessivamente un atteggiamento uguale da parte di tutta Forza Italia come è accaduto alla Camera. Guardi che ieri alla Camera io ho visto delle scene di deputati che inveivano contro Brunetta, perché questa storia di votare contro una cosa che hanno scritto e votato con noi fino all'altro giorno crea imbarazzo. Allora, cioè, quindi lei fa più appello a Forza Italia che alla minoranza del PD? No, io dico semplicemente che la riforma costituzionale ha bisogno di numeri. Se la minoranza del PD e i 24 del PD non la votano, io mi auguro che una parte di coloro che l'hanno votata e che sono convinti che sia una buona riforma la votino, ma è chiaro che lì abbiamo un problema diverso, qui avevamo dei numeri. Lì vedremo quali saranno i numeri in Parlamento. Questo dice la democrazia è questa. Ma con questa minoranza del PD che si fa? Cioè, con i bersani che si fa? Devono andare via? Faranno un altro partito? Questo è un problema che deve chiedere a loro. Io ho sempre parlato per me. Io in questo partito ho fatto opposizione, sono stato in minoranza da sempre praticamente, da quando ho contribuito a fondarlo, però non mi è mai capitato di essere in disaccordo con qualunque cosa si facciano, che siano gli 80 euro, che sia il tesoretto, che sia la riforma della scuola, che sia la pubblica amministrazione, che sia la riforma elettorale, che sia la riforma costituzionale, ma non lo devi chiedere a me. Io per coerenza, se diciamo detestassi qualunque iniziativa che prende il partito, probabilmente deciderei di andare a trovare una soluzione più attrattiva, che non quella di stare in un partito dove dalla mattina alla sera scopro che tutto non va male. Dopodiché è un problema loro. Io penso, e l'ho già detto esplicitamente, che probabilmente molte di queste persone, se andassero fuori dal Partito Democratico, nessuno le cercherebbe più. E quindi, diciamo, al di là di quelli... quindi diciamo, gridano, urlano, però stanno bene. Oggi ho sentito che Civati per la 46esima volta, cioè dal giorno dopo delle primarie, annuncia che ha un soffio dall'andar via. Ma il soffio sempre, sa, quello che va a dormire col cartello sopra domani di Giuna Giuseppe. Si sveglia la mattina e spensa sempre che sarà il giorno dopo. Com'è questa domani di Giuna Giuseppe? Sì, uno che deve fare la dieta, mette un cartello la mattina, mette la sera un cartello sopra il letto, e la mattina si sveglia e legge domani digiuna Giuseppe, tutto contento, arriva a dormire la sera perché sa che domani digiuna Giuseppe, ma lui si sveglia e sempre il giorno dopo. Va bene, quindi sempre il giorno dopo. Va bene, Giacchetti, ci ha fatto capire anche questa. La ringrazio, buona giornata ovviamente, vicepresidente della Camera del Partito Democratico, ci ha spiegato perché il sia l'Italicum, sebbene con qualche problematica, e che fare ora, che succederà. poco i numeri al Senato. È il momento del traffico. Sono molto contento che ci possano stare degli ascoltatori oggi dal punto di vista del tempo. Ci chiamano all'800240024 sui fatti di Milano soprattutto. Andrea da Pistoia, buongiorno Andrea. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione, per la conduzione. Sì, volevo intervenire dando una testimonianza un po' contraddittoria che fa parte un po' sempre del mio, del mio modo di ragionare, insomma, nel senso, dall'altra facevo questa riflessione che da buon padre di famiglia probabilmente è giusto dare la responsabilità a chi organizza e quindi diciamo mettergli un pochino... È giusto che paghi chi ha organizzato la manifestazione. Chi ha organizzato. Però dall'altra mi rendo conto che va un po' a finire un po' il senso civico che ci ha sempre contraddistinto noi come molti paesi occidentali, cioè chi è che a quel punto lì organizza una manifestazione sapendo che un chiunque cretino di infiltrare, cioè questo rischio. Però tutto questo potrebbe far nascere anche nuovi metodi di non voglio dire di protesta, ma comunque di manifestare. Però è interessante, quindi... lei dice, cioè, giusto che paghino, però che poi a quel punto chi è che organizza una manifestazione? Anche questo effettivamente, Andrea, è un problema che andrebbe posto. Vorrei, la ringrazio, vorrei andare a Palermo da Roberto. Buongiorno Roberto. Buongiorno Milan. Ma anche io penso che quello che ha sostenuto Maroni sia un'emerita sciocchezza. Cioè paghino i centri sociali? Ma centri sociali, ma chiunque organizza una manifestazione, intanto perché l'ordine pubblico è responsabilità delle forze dell'ordine, che mi permette la provocazione, a quanto pare in Italia non sono in grado né di gestire la cosa senza farci scappare il morto, né di lasciare sfogare questi, diciamo, manifestanti e poi arrestarli dopo, quindi ne scelgano una ma lo sappiano fare. La seconda cosa, molto brevemente, una volta i servizi d'ordine interni ai cortei c'erano, adesso sono stati aboliti per vari motivi, ma poi come dovrebbe mantenerlo un servizio d'ordine interno, facendo a botte all'interno del cortei? Cioè, mi dovrebbero anche spiegare... Il servizio d'ordine però un po' di celebre da quello della CGIL, un po' di, come dire, di metodi bruschi magari li sa usare quando bisogna usarli. Comunque grazie Roberto. Andrei a Roma da Alfredo, buongiorno Alfredo. Ah, buongiorno a voi, buongiorno. Dica. Senta, intanto voglio salutare il dottor Milan, io sono uno tra quelli che vorrebbe svegliarlo alle 6. Lei mi vuole svegliare alle 6, c'è una petizione su change.org per farmi iniziare alle 6, ma non vincerete. Vabbè, pazienza Alfredo, dica. Senta, buongiorno, io volevo non dire, non uscire fuori dal coro, per carità, però io vivo con il mio lavoro tra i giovani, mi alzo la mattina alle 5, ho una pizzeria, ho delle scuole qui vicino e vedo il disagio con il quale convivo. Se gli avessero devastato la pizzeria, per esempio? È bravo, certo. Io non dico che l'avrei giustificato, non voglio giustificare queste azioni, per carità, però il disagio esiste. Ma io faccio l'esempio stesso della mia famiglia, io mi alzo alle 4:30 della mattina, sto fino alle 10 la sera, mia moglie mi viene ad aiutare, mio figlio vive questa cosa, vede che arriviamo a fine mese quasi a stento. Ma certo, ma il disagio c'è Alfredo, ma ripeto, se gli avessero devastato la sua di pizzeria. Bravo, è sbagliata l'azione così, però può capitare che un giovane gli riuscisse addosso alla vetrina. Allora dico, ma quanto è questa vetrina, il costo di una vetrina paragonato al disagio che vive questo ragazzo? Non è quello il caso di questi ragazzi che hanno passato tutto. No, però lo so, sai Alfredo, il rischio di dire il disagio, poi una vetrina spaccata, anch'io capisco il disagio di molti giovani, anche l'arrabbiatura ci sta, però non si può giustificare la vetrina spaccata, da lì si passa la macchina incendiata, capisce Alfredo? E lo capisce lei proprio sulla propria pelle, lei che si sveglia alle 4:30 prima di me, c'è la pizzeria e arriva a fine mese a fatica, lo capisce meglio di me, ripeto. È il momento? Sì. Lavoratori! I nostri lavoratori! Chi non lavora? 24 mattino e Tradio24.it per raccontarci il vostro lavoro. Oggi saluto Luca, buongiorno Luca, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Luca organizza corsi di guida sicura e sportiva. Mi inquieta tantissimo. Che vuol dire, Luca? Ma noi organizziamo corsi di guida, dico noi perché non sono l'unico che fa questo lavoro, all'interno di autodromi, che sono chiaramente luoghi deputati non solo per le gare automobilistiche, ma per tutto quello che riguarda le automobili, camion e quant'altro, per cui prove tecniche, prove libere, ma anche scuola di guida. Scuola di guida sicura vuol dire che si lavora con chi utilizza la vettura anche per lavoro o spesso per lavoro, come me per esempio. Però certo, hai fatto questi corsi, mi ha sempre incuriosito, effettivamente ce ne sono tanti, però Luca, non basta, lo so che è una banalità, per la guida sicura rispettare tutte le norme del codice. Sì, però c'è anche un fatto, bisogna rispettare le norme del codice e questo ci permette di guidare bene, di guidare meglio, di guidare in sicurezza. Però c'è sempre il momento di distrazione, vedi telefonino, io adesso sono fermo, non sto guidando, o il momento in cui non si sa gestire la vettura, bagnato, frenata di emergenza, queste cose che succedono chiaramente durante la guida. No, poi più che altro io posso capire, uno magari rispetta tutte le norme del codice, ma purtroppo quelli che stanno a fianco in autostrada no, e quindi uno deve sapere anche fronteggiare il pericolo che magari viene da quello che sta guidando a fianco, non solo. Che vuol quella dire? Quella è la guida preventiva. Ecco. Per capire cosa stanno facendo gli altri e di conseguenza comportarsi. Ovviamente voi lo organizzate, immagino, l'autodromo di Monza, perché sento dalla parola. Noi lo organizziamo un po' in tutti gli autodromi. Io ora sto collaborando con l'autodromo, col circuito di San Martino del Lago, in provincia di Cremona, ma mi è capitato anche di organizzare attività a Monza, attività a Vallelunga, attività a Imola, in altri circuiti, Modena e altri circuiti con cui ho collaborato. Guida sicura e sportiva. Dai Luca, fate un po' di pubblicità, avete un sito internet, c'è qualcosa per contattarvi? Ma certo, io do il sito internet www.circuitosanmartinodellago.com dove lavoro, oppure il mio email l.mantovani.lms@gmail.com. Vabbè. Contattatemi e vi farò guidare meglio. Vabbè, c'è da dire che è un po'... Sì, vabbè, gli metti la Formula 1. È stata un po' lunga la mail. Facciamo così, scrivete a noi 24 mattino @radio24.it e noi vi metteremo in contatto con Luca. Anch'io ho fatto fatica a prendere in diretta la mail, ci ha mandato anche le foto che trovate tutte su www.radio24.it. Con te Luca chiudiamo questa puntata insieme a Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e il nostro alpino Peter Vescapè. Sei contento, alpino? Abemus Italicum. E mette gli alpini. Settimana prossima c'è la donata degli alpini, è vero, lo diremo bene.